Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono rimasto molto, molto irritato nel sentire definire imbecille chi, dopo aver perso i propri familiari a causa di un incidente, invoca la pena di morte per chi l'ha provocato. Personalmente ho perso mio figlio di 19 anni in un incidente in autostrada per un salto di corsia fatto da un camion che procedeva in senso contrario al senso di marcia di mio figlio, probabilmente dovuto a un colpo di sonno. E pensate che io in questo caso non cerchi o non chieda che alla persona che ha provocato l'incidente non capiti la stessa cosa? Certo che lo vorrei. Con tutte le mie forze lo vorrei. Io sono stato condannato a vivere tutta la vita senza mio figlio, mentre quest'uomo, essendo straniero, non entrerà neanche in carcere, ma se ne può stare tranquillamente a casa sua senza nessuna conseguenza, pur essendo stato condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere da un giudice di Como. Vi posso garantire che la rabbia che una persona sente per aver perso il proprio figlio in questo modo è talmente grande e devastante che si arriva ad augurare alle persone che ci hanno causato questa perdita le cose peggiori della vita. E se mi capitasse fra le mani, non escluderei di farmi giustizia da solo, dato che, a detta dei miei avvocati, non c'è alcuna possibilità di far rientrare questa persona in Italia a scontare la pena. Mauro. Egregio direttore, un certo Alessandro Bonelli, ubriaco alla guida di un'auto, ha ucciso 2 giovani sposi e il loro piccolo di pochi mesi. Per questo reato aveva già subito per 2 volte il ritiro della patente. Ho alcune domande da porle. Questo signore era già stato sorpreso 2 volte alla guida di un'auto in stato di ubriachezza e per 2 volte gli era stata ritirata la patente. Perché chi di dovere non si è posto la domanda se per questo tizio non fosse la norma di tutti i giorni guidare ubriaco? Perché in carcere ci sono persone che attendono da mesi di comparire davanti a un giudice, magari innocenti, senza avere quindi la possibilità di discolparsi, e questo Alessandro Bonelli è comodamente sistemato a casa sua, in attesa di riavere tra poche settimane libertà e patente, cosa che avverrà certamente per poter tornare a guidare ubriaco. Cosa hanno da dire i responsabili della giustizia ai parenti di quei poveri esseri umani cancellati dalla vita da questo Alessandro Bonelli? E giustizia sarà mai fatta? Credo di no, caro direttore, perché la legge in questo paese protegge solo i criminali e si preoccupa solo di tutelare i presunti diritti degli stessi. Lei potrebbe rispondermi che i giudici si limitano ad applicare la legge. Appunto, ma quanto sconforto ho nell'anima. Carlo. Gentile Carlo, nei giorni scorsi la tragedia sull'autostrada che lei descrive, così come la follia omicidia volta mantovana, hanno riportato in primo piano il problema di come proteggere la società, la nostra società, dai pazzi, dai criminali, dagli ubriachi. Lasciamo stare le frasi a effetto, perché è semplicemente assurdo dire in questi casi che la legge protegge i criminali. Non è certamente così, anche se dobbiamo riconoscere che su certi fronti la legge appare semplicemente impotente. Il caso degli omicidi commessi alla guida di un'auto è comunque estremamente significativo. I molti, i troppi casi avvenuti negli ultimi mesi devono sollecitare una riflessione e una serie di interventi. Non tanto e non solo per aumentare semplicemente le pene, quanto per sviluppare una seria e concreta azione preventiva, maggiori controlli e maggiore severità nel togliere la patente o applicare sanzioni aggiuntive. Quanti tra chi ci ascoltano possono dire di essere stati fermati per un controllo? Sicuramente pochi, troppo pochi. Ma è anche vero che non è possibile trasformare le strade e le autostrade in tanti posti di blocco. E allora ci vogliono più controlli, ci vuole più fermezza nel fermare chi non rispetta le regole, ci vuole maggiore durezza dei magistrati, applicando la legge in modo rigoroso ed esemplare. Ma ci vuole anche e soprattutto una maggiore educazione. L'educazione al rispetto della propria vita e di quella degli altri. L'educazione a conoscere e a evitare i rischi e i pericoli. Quell'educazione civile che purtroppo le nostre scuole riescono con sempre maggiore difficoltà a proporre ai giovani. Caro Fabi, una nuova moda sta prendendo piede in questo povero paese, quella delle madri che tentano il suicidio con i figli appresso. Credo che questo sia un atto di disperazione estremo o di estremo egoismo. Forse è disperazione, almeno stando alle storie che i media ci propinano. Non affrontare i problemi del paese porta anche a questi atti contro natura, oltre che a mariti che uccidono mogli a martellate, strangolano suocere e amici, anziane pensionate trovate con arsenali in cantina, litigi condominiali che finiscono a fucilate, operai che si tolgono la vita e via dicendo. Per esorcizzare queste nefandezze basterebbe sentirsi protetti. Certo, in primo luogo ci si deve proteggere tra familiari, ma pare che ormai per qualsiasi motivo farla finita rappresenti la soluzione migliore. Ci dovrebbe essere lo Stato non con una presenza assillante, ma come una presenza rassicurante. Parlare dei veri problemi porta a doverli risolvere e tutta la nostra classe politica non ne è in grado. Siamo noi che ci dobbiamo arrangiare, quindi finché c'è vita, c'è speranza. Non togliamoci anche questa. Rudy. Mi chiedo da che cosa dipenda questo silenzio dei media intorno al caso accaduto a Rossano, dove un feto abortito di 5 mesi e mezzo è sopravvissuto, a dispetto dell'incuria dei medici, per ben 2 giorni. Infatti, la presenza di vita è stata rilevata dal cappellano dell'ospedale a 4 ore di distanza dall'intervento. Dopodiché, paradosso dei paradossi, si è posto il feto in incubatrice per salvargli la vita. Ma non è stato sufficiente. Mi sembra paradossale che si trascuri un caso del genere per favorire invece le solite telenovelas intorno a Berlusconi sì, Berlusconi no. A meno che non si temano coloro che con arroganza intimidatoria gridano «la 194 non si tocca». Certo, tanto calpesta solo i diritti di chi non può protestare. Glauco. Cara Radio 24, ho ascoltato il lamento accorato di Laura, che abita nel centro storico di Bologna, ed è triste per la chiusura del suo negozio di alimentari, usurpato dagli odiosi pakistani. Le vorrei sottoporre tramite voi il punto di vista di un bolognese di periferia, che per lavoro viaggia molto. Se gli esercizi commerciali del centro di Bologna chiudono, non è per gli occhiuti controlli di vigili urbani e finanzieri, né per le attività dei nuovi immigrati, ma perché la loro clientela si è progressivamente ridotta a causa del calo di abitanti. Le famiglie da tempo fuggono dal cuore della città perché gli affitti sono insostenibili e i prezzi del mercato immobiliare inavvicinabili. Di questa bolla sono responsabili anche i negozianti, che fin dagli anni 90 hanno trovato più conveniente chiudere l'attività, cedere i muri delle botteghe alle banche e quelli di casa ai professionisti in cerca di uno studio ben piazzato. Così sono lievitati i prezzi e la gente è andata a vivere fuori porta o nei paesi della provincia, mantenendo una fittizia residenza dentro le mura della città per poter conservare il permesso di ingresso con l'auto. Sono rimasti gli studenti, che però, pagando già 300 euro per un posto letto, la spesa la vanno a fare al discount o all'ipermercato, dove tutto è meno caro. Se si trova eccessiva la presenza e lo zelo della Guardia di Finanza, è perché ci si è dimenticati di quei commercianti dal tenore di vita esuberante, abbinato a una dichiarazione dei redditi da nulla tenente, o dei prezzi in euro dai quali, fin dai primi giorni del 2002, sono spariti i centesimi per disinvolto arrotondamento. Sotto i portici che opprimevano Vittorio Alfieri, io i cocci di bottiglia per terra li vedo da 30 anni e ho continuato a vederli anche durante l'amministrazione del sindaco ed ex commerciante Guazzaloca. Quello che per me rappresenta il vero degrado è ben altro. Sono quei negozi eleganti, per lo più di antiquariato o presunto tale, che stanno spuntando come funghi dentro e fuori il centro di Bologna. Non vi vedo mai entrare nessun cliente, ma non chiuderanno per questo. Il loro scopo non è vendere, ma impegnare denaro di dubbia provenienza. Gli alimentari gestiti da asiatici li ho visti in molte parti del mondo, da Durban in Sudafrica a New York. Stanno aperti anche 24 ore su 24 e nessuno ci trova nulla di strano. Cara Laura, definirsi leghista è un suo diritto. Dare la colpa agli immigrati o a quei comunisti dei vigili urbani, invece, è solo comodo. Daniele. Egregio direttore, ascoltando la vostra radio mercoledì sera ho sentito sarcasmo e denigrazione sulla proposta che si sta avanzando per la regione Romagna. Ritengo che voi non abbiate il diritto di denigrare i cittadini romagnoli che stanno lottando per affermare il proprio diritto di autodeterminazione. Venite a vivere in Romagna prima di giudicare. Gigi. Direttore, sì, lo so, è una sparata assurda quella della Lega che vieta le insegne scritte in lingue esotiche e prevede l'esame di italiano per i negozianti stranieri. Ma qualcuno mi spieghi perché se io, italiano, voglio aprire un'attività in provincia di Bolzano, che credo sia tuttora in Italia, devo fare un esame di tedesco, mentre uscendo dal mio studio di Trieste, che è stato fagocitato dal quartiere cinese, rapidamente formatosi ed espansosi fino a divenire quasi un quarto del centro storico, trovo negozianti che non sanno neanche una parola di italiano. E se mi serve un cacciavite devo vederlo in vetrina per poterlo comprare, indicando il mio desiderio con l'indice teso. Sono imbarazzato a livello morale. Non so se preferirei veder sparire l'obbligo dell'esame di tedesco per aprire un'attività in Alto Adige oppure evitare l'esame di italiano ai commercianti orientali. Come si chiama questo mio disorientamento? Globalizzazione, forse? Certo, ma non l'accetto se è a senso unico. Giorgio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.